Il segretario generale della NATO, il liberale olandese Mark Rutte, ha inviato un SMS a Donald Trump da leccapiedi sdraiato in cui dice: com'è grande lei, com'è bravo lei, finalmente lei, Trump, ha ottenuto che gli europei paghino il 5% del loro prodotto interno lordo per le spese militari. Questo Mark Rutte rappresenta bene cosa sia quell'organizzazione criminale guerrafondaia che è la NATO. La NATO ha un padrone, gli Stati Uniti d'America, e poi gli altri che sono servi, a vario titolo, sgomitando tra loro. Al vertice dell'AIA vedremo il governo socialista spagnolo dire, di Sanchez, dire sì, spendiamo di più ma un po' meno. Vedremo Merz, il capo di governo della Germania, di un governo lui democristiano ma assieme ai socialdemocratici e sostenuto dai Verdi, che dirà la Germania è ridiventata grande, noi spenderemo molto di più. Macron, liberale francese, dire ma la Francia è comunque la più grande di tutti. Starmer, capo del governo laburista britannico, a dire ma i primi servi degli Stati Uniti siamo noi. E la nostra Giorgia Meloni, fascista ripulita, ha deciso di copiare Ursula von der Leyen. Lei nazionalista ha copiato l'europeista guerrafondaia, presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che per prima ha detto se l'Europa vuole la pace deve prepararsi alla guerra con il riarmo. Lei l'ha detto in latino, ma è questo. Sono tutti dentro. Tutti dentro. Qualcuno dice riarmiamo la NATO, qualcuno dice no, riarmiamo gli stati nazionali, qualcun altro dice no, riarmo, non dice niente sul riarmo NATO, dice no al riarmo nazionale, ma sì alla difesa comune europea. Sono tutte palle, tutte bubole che nascondono la servitù dei governi e dei partiti principali europei nei confronti dell'imperialismo americano e della guerra. La NATO è complice e alleata del genocidio israeliano a Gaza. La NATO ha sostenuto l'attacco fallito di Israele all'Iran. La NATO ha distrutto la Libia, ha distrutto la Siria. La NATO fa la guerra totale alla Russia sperando ancora di vincerla, sabotando ogni accordo diplomatico. La NATO minaccia la guerra alla Cina. La NATO è un pericolo per il mondo e ora anche un pericolo per i suoi popoli, perché vuole tagliare le spese sociali per le spese militari. Basta con la NATO e basta con tutti i governi e i partiti complici della NATO.